conferenza stampa oggi per il Cammino delle Idee, Festa della Resistenza, dal 21 al 24 settembre a Marzabotto, al Parco Peppino Impastato. Siamo con Stefano Brugnara, presidente di ARCI, che fa parte del gruppo, dell'ampio, di organizzazioni che hanno organizzato questo evento. Sì, è un, come dicevo prima, è un nuovo capitolo che scriviamo, siamo ormai appunto una compagine consolidata, siamo molto compatti, siamo uniti, perché lo richiede il periodo che stiamo attraversando e stiamo vivendo. Bisogna essere compatti e uniti per contrapporre le nostre idee alle cattive idee, che ci propongono i nuovi fascismi. Che purtroppo osserviamo ogni giorno, c'è un ritorno ormai palese, ormai diciamo senza nemmeno il bisogno di celarsi di manifestazioni fasciste, di atteggiamenti fascisti, di formazioni che si richiamano direttamente al fascismo. Addirittura siamo arrivati a rievocare la marcia su Roma. Contro questo, contro il rifiuto dell'accoglienza, contro la disumanità del rifiuto all'accoglienza, noi dobbiamo essere compatti e uniti per proporre le nostre idee, per proporre il nostro entusiasmo e la nostra capacità di dare vita a una società che sia una società davvero umana.